Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi vi invito a fare un bel viaggio a Pompei, una meta sempre molto bella, nonostante tutte le polemiche che accompagnano la gestione di questo sito, un posto straordinario di cui possiamo essere fieri e orgogliosi. Ne abbiamo adesso una testimonianza molto bella in un libro appena uscito da Electa, di cui sono autrici Eva Cantarella, che è un'esperta di diritto romano e di diritto greco, e Luciana Iacobelli, che invece è un'archeologa. Il libro si intitola Nascere, vivere e morire a Pompei, 232 pagine, 59 euro, è un grande libro con bellissime illustrazioni che però hanno accanto molte spiegazioni assai interessanti e approfondite su quella che era la vita quotidiana a Pompei, e quindi il libro ci permette non soltanto di lustrarci gli occhi, come si dice, ma soprattutto di andare a fondo del modo in cui i pompeiani vivevano e quindi di avere uno spaccato molto importante e significativo sulla vita della società e della civiltà romana. Affrontiamo questo tema con una delle autrici. Buongiorno a Eva Cantarella. Buongiorno. Eva Cantarella, in questo libro che scrive con Luciana Iacobelli, una delle prime cose che volete fare è quella di smontare alcuni miti su Pompei. Tra l'altro uno di questi è quello di una Pompei libertina. Come mai si è costruito questo mito di Pompei? Si è costruito perché si interpretavano male i dati, voglio dire, si vedevano delle iscrizioni. Per esempio, ogni volta che si vedeva una iscrizione con un nome femminile, si cominciava a dire che quella lì era una prostituta che lavorava. Ci sono delle iscrizioni in cui le prostitute offrono i loro servizi, no? Ma allora bastava che vicino ci fosse un edificio e quello diventava un lupanare. E quindi è nata questa leggenda di Pompei, come se lei va a Pompei e compra i libri nei banchetti fuori, vede che tutti dicono che era la città appunto delle prostitute. Anche i custodi ci mettono del loro. Ma fanno di tutto, perché naturalmente quelli fanno il loro mestiere. E quindi si è arrivati a dire che, non so, un numero enorme di donne, una percentuale enorme di donne erano prostitute. Cioè, ovviamente non era vero. C'erano dei bordelli, ma Wallace Edril, che è un grande studioso che si è occupato a lungo di Pompei, ha smontato questo mito. I bordelli in realtà sicuramente ce n'è uno, forse due, e qualcuna di queste c'è, poche, alcune celle meretrici, che erano delle camere attigue o vicine alla casa di un signore molto per bene, un pater familias romano, che faceva prostituire lì una delle sue schiave. Ecco, nel libro però ci sono poi tanti altri elementi relativi alla vita di Pompei e quindi della Roma di quel tempo. Uno degli aspetti più interessanti è quello che emerge sulla modernità, mi pare che usiate proprio questo termine, della vita coniugale, che si accompagnava anche a una notevole emancipazione delle donne. Sì, devo dire che per esempio io, studiando Pompei, ho un po' non cambiato, ma ho capito che la mia idea del matrimonio romano e della vita coniugale, che mi ero fatta studiando fonti diverse, no, da quelle che si trovano a Pompei, sono fonti iconografiche o iscrizioni, beh, ho capito che il modello di matrimonio romano a Pompei era un po' modificato, nel senso che il matrimonio a Roma, parlo del centro, no? Centro del potere, il matrimonio era semplicemente un affare economico, sociale, dove l'amore non c'entrava assolutamente, era l'ultimo dei pensieri. E invece a Pompei, probabilmente proprio perché è lontano dal centro del potere, si hanno testimonianze di coppie che parlano della loro vita coniugale in modo diverso e quindi che testimoniano dell'esistenza di rapporti che potremmo anche dire proprio definire rapporti di coppia. Un grande storico romano, Paul Vane, esclude che a Roma ci fossero rapporti di coppia, perché dice il concetto di coppia è un concetto che non c'è a Roma. È vero, non c'è a Roma nelle fonti letterarie, non c'è a Roma nelle testimonianze della vita romana, ma a Pompei emerge questo rapporto diverso. I vostri testi e le tante immagini che corredano a un certo punto affrontano il tema dello splendore delle case pompeiane, che sono secondo voi espressione anche di una voglia di vivere bene che avevano i romani di Pompei. Ma i romani, in questo anche i romani, ma i pompeiani, Pompei era una città commerciale importantissima, ma era anche il posto dove andavano, soprattutto attorno a Pompei, in villeggiatura, persone molto ricche, eccetera, e dove il clima e tutto quanto consentiva di vivere molto bene, ma i romani amavano la bella vita, basta pensare a quello che mangiavano, per esempio, quando la sera banchettavano. I banchetti dei romani erano all'insegna del godimento della vita, non c'è dubbio. Poi spettacoli, la vita per chi poteva permettersi permetterselo, era molto piacevole a Pompei. E a Pompei c'era un'intensa vita economica e una vivace vita politica anche. Molto interessante, ecco, un paio di cose molto interessanti che emergono dai graffiti pompeiani è proprio che, per esempio, la grande partecipazione politica anche delle donne, beh, naturalmente come lei ben sa e come tutti sanno, le donne non avevano la capacità politica, però le donne pompeiane si interessavano alle elezioni municipali che si facevano ogni anno e partecipavano alla campagna elettorale. Allora la campagna elettorale non la faceva il candidato come oggi, ma la facevano i suoi votanti, futuri votanti, che dicevano agli altri vota per il tal dei tali, e a Pompei abbiamo delle iscrizioni di donne che appunto dicono votano, vota Caio Lollio per fare questa carica, vota quell'altro, e la cosa interessante è che sono spesso donne anche di condizioni sociali molto basse, per esempio le famose aselline, che sono le ragazze che lavorano in quello che oggi chiameremmo un bar, un termopolium, nel quale dicono di votare per una. Allora si dice, tra l'altro, per in questa mania per cui tutte erano prostitute, siccome asellina vuol dire asinella, e quindi si è detto erano tutte prostitute come la padrona del locale, e invece no, erano delle lavoratrici poverine, modeste di condizione, che però ecco si occupavano di politica. Questo perché è interessante, perché c'è un dibattito tra gli storici sulla emancipazione delle donne romane. Il primo secolo avanti Cristo e il primo dopo sono i secoli della grande emancipazione delle donne, però si è sempre discusso, era un'emancipazione di elite o era diffusa? Beh, Pompei ci dimostra che era diffusa anche a queste ragazze di condizione molto modesta, che addirittura appunto si interessavano di politica. Al termine di questa immersione in Pompei, come consiglia ai nostri ascoltatori di accostarsi a Pompei? Come organizzare una visita di Pompei? Lei dice che cosa andare a vedere, Dio mio, è talmente bello tutto. Con che spirito? No, ma io farei a Pompei quello che faccio anche quando vado in una città viva, diciamo, no? E allora io quando vado in una città non è che vado per prima cosa a vedere il museo, no, comincio a girare per le strade e vedo un po' la città. E la cosa più bella di Pompei è proprio l'idea di entrare e passeggiare per le strade, perché è stata sepolta nel 79 d.C., però è impressionante come passeggiando per le strade, lei passeggia per la Via dell'Abbondanza, ma per tutte le strade, e ha la sensazione della città che vive. Dopodiché può andare a vedere le cose più belle, quelle che alcune sono state deturpate purtroppo, come non mi faccia parlare del teatro, di quello che è stato fatto al teatro di Pompei negli ultimissimi tempi, ma insomma per fortuna sono stati pochi gli edifici deturpati, e per il resto può andarne a vedere, ce ne sono di meravigliosi. Quindi ma io però devo dire, insomma è banale, ma la Villa dei Misteri comunque non me la perderei. Bene, grazie a Eva Cantarella, autrice con Luciana Iacobelli di Pompei, nascere, vivere e morire a Pompei. Grazie a lei. Buona domenica. Una civiltà non meno affascinante è quella egiziana, sulla quale getta luce una biografia del suo sovrano più noto, Ramesse il Grande, che è il protagonista del libro di Manfred Klaus, pubblicato da Salerno, 210 pagine, 22 euro, tradotto da Federico Contardi. Ramesse, ancorché vissuto 1200 anni prima di Cristo, è ancora molto vivo e visibile per la massa di monumenti e di iscrizioni che ha lasciato in Egitto, ma nonostante questo è poco conosciuto, sappiamo poco, al di là dell'immagine che egli stesso aveva creato, come dice l'autore di se stesso, e sappiamo poco di chi fosse, e questo libro cerca appunto di sondare questo mistero e quindi di conoscere l'immagine vera, l'ambiente in cui il sovrano operò, la grande eredità monumentale, e tutti aspetti che vengono approfonditi in questo libro, che si conclude con un parallelo tra Ramesse e gli imperatori romani, proprio perché gli imperatori avrebbero colto dal ricordo di quel grande faraone proprio la ieraticità e la sacralità della figura del faraone. Il nome Ramesse, scrive infatti lo storico, diventò quasi un titolo, come lo fu Augusto, che era parte integrante della titolatura imperiale romana. Egli ha superato tutto ciò che i re avevano fatto. Così scrive Ramesse su se stesso nel tempio di Ramesse, unita all'eternità, sede di Amon a Luxor. E quindi buona visita anche nei monumenti di Ramesse. Un'altra grande civiltà del passato è quella ottomana, che ci viene presentata in tutte le sue sfaccettature, complessità e contraddizioni da uno storico che ha la grande capacità di farsi leggere da tutti, ha scritto anche dei romanzi, Alessandro Barbero, che con Sellerio pubblica Il Divano di Istanbul, 216 pagine, 12 euro. Quello ottomano fu un impero che nacque nel 300 per svilupparsi rapidamente fino alla conquista di Costantinopoli nel 1453 e di là poi la conquista di una impero vastissimo che prese grande parte del mondo allora conosciuto. Per molti anni l'Occidente lo considerò un rivale temibile, poi dal 600-700 un rivale sconfitto in decadenza e in declino. Quella dell'impero ottomano, spiega Barbero, fu una realtà contraddittoria perché non fu soltanto Turchia, ma ebbe delle forti caratterizzazioni di tipo interrazziale e interreligioso che a un certo punto fecero addirittura dell'impero ottomano quasi un modello. E Barbero ci spiega appunto l'evoluzione e poi la successiva involuzione di questo grande impero. E Istanbul troviamo in un libro di un antropologo francese, Michel Peraldi. Il libro si intitola Istanbul, passioni nella valigia con le merci del bazar, è pubblicato da Mesogea, 106 pagine, 16 euro, tradotto da Caterina Pastura. Qui abbiamo incontri, interviste e immagini che ci danno un quadro insolito e tutt'altro che pittoresco e folcloristico di quella straordinaria capitale. E Istanbul ritroviamo, assieme a tante altre mete, in un libro di viaggi di un grandissimo scrittore e giornalista americano, John Dos Passos, di cui Donzelli pubblica Orient Express, 206 pagine, 18 euro, tradotto da Maurizio Bartocci. Questa è una serie di articoli scritti soprattutto nella seconda metà del 1921, un anno drammatico in cui succedevano molte cose e molte spinte alla frammentazione dell'impero, soprattutto nell'area balcanica. Dos Passos viaggia appunto nei Balcani, in Turchia, nel Caucaso, nel Medio Oriente, e ne ricava questo reportage affascinante riprodotto nel libro anche da Otto Acquerelli, dell'autore Niente Male. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, parliamo adesso di libri scritti da giornalisti e cominciamo con due giornalisti del Sole 24 Ore, il giornale alla cui casa editrice è la casa editrice anche di questa radio. Sono Angelo Mincuzzi e Giuseppe Oddo, che hanno pubblicato con Feltrinelli Opus Dei, il segreto dei soldi, dentro i misteri dell'omicidio Roveraro, 14 euro per 220 pagine. I due giornalisti affrontano qua un caso che fece molto scalpore, ma che forse poi è stato un po' trascurato, quello del finanziere Gianmario Roveraro, che venne ucciso, come ricorderete, barbaramente, tra l'altro l'8 luglio del 2006. Dell'omicidio sappiamo quali sono stati i responsabili, ci sono stati dei processi, delle condanne, ma la sentenza, secondo i due autori, non ha fatto del tutto luce sulle autentiche ragioni di quell'episodio, di quel tragico episodio di cui fu vittima Roveraro, che era stato un protagonista importante della finanza italiana. L'influenza di Roveraro si era molto ridotta negli ultimi anni e di lui era noto il legame con l'Opus Dei, una figura quindi autorevole che aveva perso forse molto del suo smalto, ma la cui fine fece scalpore. E su questa vicenda indagano appunto Mincuzzi e Oddo con uno stile quasi da giallo per ricostruire prima la carriera e poi la caduta di Gianmario Roveraro, il suo legame con l'Opus Dei e alcune vicende nelle quali i due aspetti si intrecciarono. Gli autori non giungono a conclusioni inoppugnabili, parlano alla fine di assenza di trasparenza che legittima il dubbio che tra le diverse strutture dell'Opus Dei sparse per il mondo e il vertice corrano sotto traccia consistenti flussi finanziari. Ricordano Mincuzzi e Oddo come sia certo che Roveraro abbia dedicato all'opera tutta la sua vita. Affermano, scrivono essi stessi, che i guadagni dell'affare anglo-austriaco fossero destinati in beneficenza. L'affare anglo-austriaco è uno di quelli su cui indagano appunto i due giornalisti. Parlano di indizi che portano in varie direzioni. Concludono che ci si è accontentati di aver trovato l'assassino e i suoi complici, forse perché, scrivono, con la sua pervasività e la presenza nei gangli del potere, l'Opus Dei incute timori irreverenziali, o forse per non alzare il velo su vicende del passato di cui Roveraro era stato testimone dalla Federconsorzi alla Parmalat. Quindi una lettura molto interessante, perché dietro un episodio tragico della finanza italiana ci permette di alzare il velo, anche magari solo in parte, su alcune vicende che l'hanno dominata negli ultimi anni. Conobbe bene Roveraro un altro protagonista dell'economia e della finanza italiana, Luigi Guatri, che è uno dei maestri dell'Università Bocconi, di cui è vicepresidente, che è stato protagonista della finanza italiana in veste di consulente di tante operazioni importanti. Guatri ha conosciuto gran parte dei protagonisti dell'economia e della finanza italiana e li rievoca nei volumi Li ho visti così, di cui è uscito il secondo, pubblicato da Egea, 384 pagine, 28 euro, volume curato curato anch'esso da Hermes Zampollo come quello precedente. Tra i vari protagonisti troviamo qui appunto anche Gianmario Roveraro. Guatri qui insiste sulla correttezza del finanziere che egli avrebbe dimostrato proprio nel caso Parmalat, sulla quale indagano Mincuzzi e Oddo, concludendo che al massimo Roveraro in questa vicenda diede prova di ingenuità. Un ritratto insolito, assieme a quello di Roveraro e a tanti altri, per la natura personale di questo scritto, è quello che Guatri fa di Indro Montanelli, che entra qui soprattutto come protagonista dell'ultima avventura, che fu in parte anche un'avventura finanziaria, purtroppo andata male, quella di fondatore del quotidiano La Voce. E qui appunto Guatri ci dà di Montanelli, e di Montanelli in quel particolare frangente, un ritratto insolito e gustoso. E proprio di Montanelli esce ora un libro particolarmente curioso, Ricordi sull'odio, ritratti taglienti per cadaveri eccellenti, è pubblicato da Rizzoli, 224 pagine, 17 euro. Tranne due scritti, si tratta di una serie di epitaffi inediti nei quali Montanelli si diverte a fulminare in poche battute, quasi si trattasse di un necrologio appunto, i diversi protagonisti della cultura italiana. Come osserva Marcello Staglieno, che è il curatore di questo volume, questi scritti risalgono alla fine degli anni 50 e alcuni di questi furono scritti assieme all'amico di Montanelli, Leo Longanesi. Leggiamo qualcuno di questi fulminanti ritratti, quello per esempio dedicato a Togliatti, qui riposa Palmiro Togliatti, impiegato modello di rivoluzioni parastatali, oppure quello di uno dei suoi grandi avversari, Fanfani, qui riposa Mintore Fanfani, amico dei nemici, nemico degli amici, figlio di De Gasperi, padre di nessuno, e infine l'epitaffio dedicato a se stesso, a Montanelli, qui riposa Indro Montanelli, genio compreso, spiegava agli altri ciò che egli stesso non capiva. Un altro giornalista di cui venne pubblicato un libro è Maurizio Tortorella, il vice direttore di Panorama, di cui esce L'agonia, come i processi mediatici di piazza hanno ucciso il garantismo in Italia, pubblicato da Boroli, 176 pagine, 14 euro. Tortorella è uno dei giornalisti che ha seguito Tangentopoli fin dall'inizio, ancora prima che esplodesse aveva avuto modo di intervistare Di Pietro e, come scrive nell'introduzione, era stato particolarmente colpito dopo questa introduzione, ripeto, precedente a Tangentopoli, il metodo che Antonio Di Pietro gli confessa di seguire appunto in questa intervista. Scrive infatti Tortorella: dopo l'uscita era uscito dall'ufficio di Di Pietro conquistato dai suoi metodi così efficacemente tecnologici, ma assai perplesso per la personalissima filosofia processuale che aveva sbandierato. Quando poteva, aveva spiegato sorridente, gli indagati li sbatteva in galera anche per pochi giorni, i giornali avrebbero fatto il resto. Ciò che contava non era tanto andare al processo per provare la colpevolezza, l'importante era esporre gli indagati all'agonia, punirli comunque per quanto si poteva ragionevolmente ipotizzare avessero fatto. E di qui capite quindi il titolo. Tortorella esamina le ragioni di questo andazzo, dà voce a molti magistrati preoccupati di questo stile di indagine. Per esempio, a un certo punto sente un magistrato di Magistratura Democratica, quindi non certo un moderato, Nello Rossi, procuratore aggiunto a Roma, che definisce il fenomeno come il circuito PMGIP. Sostiene poi Rossi che la pubblicazione degli atti investigativi sui giornali e soprattutto delle intercettazioni è letteralmente una pratica indegna e un fenomeno di barbarie. Ricorda cosa diceva l'attuale sindaco di Milano, che è un importante giurista, Giuliano Pisapia, che è stato presidente della commissione per la riforma del codice penale, il quale si è sempre detto convinto, ricorda Tortorella, che la pubblicazione di intercettazioni telefoniche e soprattutto delle conversazioni che riguardano chi non è coinvolto nelle indagini o che trattano argomenti privati sia una barbarie, parole di Pisapia. È come spiare dal buco della serratura e amplificare su un megaschermo quelle immagini legalmente carpite. E il libro di Tortorella si sviluppa con una serie di casi clamorosi, alcuni tutt'altro che chiusi, per esempio quello che ha coinvolto il presidente della regione Abruzzo, Ottaviano Del Turco, e poi si parla di tante altre vicende che hanno suscitato clamore nell'opinione pubblica e che magari si sono risolte in un nulla di fatto dopo anni e anni di carcere e sofferenza. Ma appunto, conclude Tortorella, quello che conta per tanti magistrati non è tanto provare la colpevolezza degli indagati, perché l'importante è metterli alla gogna, punirli comunque per quanto è possibile che abbiano fatto. Una prospettiva indegna per chiunque abbia una visione liberale della giustizia e per chi crede che il garantismo non sia un valore opinabile. E a questo punto il confettino. Chiudiamo con un grande classico, tutte le fiabe di Charles Perrault, tradotte da Maria Vidale e illustrate da Elodie Nouchen per Donzelli, 198 pagine, 23 euro. La traduzione nuova, le fiabe sono immortali e qui vengono attualizzate dal tratto dell'artista che le illustra. Il testo delle fiabe è integrale ed è completato dalla morale, morale che spesso viene spunta nelle edizioni correnti. E proprio questa morale rende forse la lettura di queste fiabe consigliabili anche agli adulti. E a questo punto ringrazio Luca Cremonesi in redazione, Fabio Contadori in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete riascoltare sempre questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.